d'amor mio tu disprezzi. Ella, con tal vigore, nella mia libertà servo il piacere. Piacere che troppo è fiero, questo è il modaliso che ti vive. Ma piacer che mi giova. A dirmi sì, tu, disdegno e di formare. Già te lo dissi ancora, non voglio amore. Thank you. eterne stelle, dietro discendi. E tu, ma te distendi, distendi, perché ascondi.

più bello il godimento, ne vi addormento, ne vi addormento, vi colla dal godere. 听众朋友，以上大家所欣赏到的是维瓦尔第歌剧《安德鲁姆达·里贝尔卡》全剧的录音，由克里马斯、肯奇、贝尔罗夫、鲁奇卡尔演唱，维也纳巴洛克乐团演出，马尔康指挥。下面请您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道的精彩节目。